America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Hey everybody, welcome back to the show. I'm so excited. You know, from time to time we like to get an international perspective on current events, mainly to confirm that we really don't know anything about international events. So we're happy to welcome back to the program our senior international correspondent from South Africa, Trevor Noah's here. Trevor! John Stewart, il Daily Show, in conversazione con Trevor Noah. Ecco, per voi sono nomi sconosciuti, ovviamente, però Jon Stewart è forse uno dei personaggi più conosciuti della televisione americana. Comedy Central è questo canale comico, ma un canale molto intelligente, di satira molto intelligente, di satira politica. Jon Stewart fa questo finto telegiornale, appunto il Daily Show, in cui si diverte a prendere in giro un po' tutto. E ha degli ospiti, dei corrispondenti. Trevor Noah, un sudafricano, un giovane sudafricano, è stato suo ospite, suo, tra virgolette, corrispondente. In questo scambio che vi ho fatto ascoltare, si sente appunto Stewart che dice: beh, per molto tempo, da molto tempo hanno voluto dare una prospettiva internazionale agli eventi, giusto per vedere che non sappiamo nulla davvero qui in America su quello che capita nel mondo. E dunque ecco che interloquiva con Trevor Noah, giovane sudafricano di colore, un comico anche lui, ma molto intelligente, molto preparato, 31 anni, che, pensate, prenderà il posto di Jon Stewart. È un passaggio storico. La cosa che mi ha colpito è che in questo programma arriva un sudafricano, cioè non c'è una barriera, tra virgolette, culturale da paese a paese, perché in comune hanno la lingua, cioè l'inglese. Quello che mi ha colpito è che negli ultimi tempi c'è stata come un'accelerazione della presenza di anglosassoni negli Stati Uniti. Cioè, tu parli inglese e dunque hai un mercato globale passando per gli Stati Uniti. Eddie Mary Crawley, I presume. You presume, right? Sorry to be so disheveled. We've been on a train since dawn and we had to change in the shell. Downton Abbey, per esempio, qualcuno lo chiama un polpettone, in realtà ha affascinato gli americani, è una storia in costume, produzione britannica ITV, la PBS, la televisione non profit americana, la distribuisce, ha avuto successo anche in Italia, sono tutti incollati a seguire la storia di questa famiglia inglese. Ma gli attori inglesi, Colin Firth per esempio, adesso c'è a Broadway Helen Mirren in Audience, che è uno spettacolo che sta avendo un enorme successo, Joanna Cause è il direttore di Cosmopolitan e prima era direttore di Marie Claire, Anna Wintour, grande celebrità, direttore di Vogue, Mark Thompson, invece l'amministratore delegato del New York Times, prima lavorava per la BBC, John Micklethwaite, che era il direttore fino a un paio di mesi fa dell'Economist, adesso è lo zar delle news di Bloomberg. E quindi, insomma, c'è questo dominio della lingua inglese. La domanda è: c'è spazio per qualcuno che l'inglese lo impara partendo dall'italiano? Beh, la risposta è sì, e io la risposta ve la do col mio ospite di oggi, ai microfoni di America 24, Francesco Guerrera. Buongiorno Francesco. Buongiorno Mario. Allora, Francesco, come sentite, italiano perfetto, Francesco Guerrera è il capo della redazione finanza proprio del Wall Street Journal qui a New York. Francesco, insomma, direttore australiano, adesso un direttore inglese e tu un italiano alla guida della finanza, che è uno dei temi chiave del giornale. Come mai? Credo, Mario, che abbia ragione tu, nel senso che l'importante è imparare la lingua inglese. Io sono uscito dall'Italia per l'università, per fare l'università a Londra, e ho lavorato tanto tempo al Financial Times, e poi col Financial Times sono finito a New York e da New York sono passato al Wall Street Journal. La chiave è sapere la lingua inglese bene e essere in grado di fare concorrenza a gente che ha la lingua madre, la lingua inglese. Quando è che hai cominciato a studiare l'inglese? Perché non basta aver fatto il college in Inghilterra o all'estero. No, io l'ho studiato a scuola, ovviamente, come si faceva dappertutto, e poi delle lezioni private, e poi ho incominciato a studiare l'inglese andando in Inghilterra all'estate in queste full immersion, stando con delle famiglie, e lì ho imparato, diciamo, la lingua parlata. La lingua scritta, per, a livello giornalistico, diciamo, l'ho imparata durante l'università, facendo l'università, perché è proprio lì che ho migliorato, diciamo, l'inglese scritto. Dall'inglese scritto all'inglese parlato, cioè tu te la sentiresti oggi, come dire, di poter competere per esempio per prendere il posto di Jon Stewart? Guarda, questo è una cosa interessantissima, perché in realtà io, avendo studiato l'inglese non di madrelingua, ho ancora un accento italiano. Scusa, non dirlo a me, perché a me mi dicono: ah, ma tu parli benissimo. In realtà, quando mi sentono parlare gli americani, mi guardano e dicono: ma tu da quanto stai qui? Perché sembra che sono out of the boat, come si dice, sono uscito dalla nave con la valigia e lo spago magari 3 settimane prima. Ecco, appunto, quello comunque sarà qualcosa che rimane con noi in ogni caso, no? Questo accento. Però è interessante vedere, io ho fatto anche tanta televisione in America, in Inghilterra, e non è che l'audience ha protestato perché c'è uno con l'accento che parlava inglese. Se l'accento è corretto, se si può far capire, è possibile farlo. È certo che scegliere Trevor Noah, che ha un accento abbastanza forte sudafricano, è un po' un momento chiave, cioè cambierà un po' le carte in tavola per il pubblico americano in particolare, che è abituato a sentire gente con l'accento americano in televisione. Sì, infatti io credo che sia una scommessa, perché poi alla fine la cultura è una cosa molto importante, cioè la radice culturale. A questo punto ti faccio una domanda al contrario, perché proprio in questi giorni si chiacchiera sulla direzione del Corriere, chissà, a un certo punto mi ricordo era venuto fuori anche il tuo nome. Ecco, però tu chiaramente la nostra barriera è culturale al contrario, perché quelli avranno, inorriditi, avranno detto no, quello è americano, figurati che ci capisce. Cioè, perché qualcuno che è australiano, inglese, sudafricano, ma che parla la stessa lingua, può venire in America e ricevere incarichi molto importanti, mentre invece da noi in Italia c'è resistenza. Perché? Questa è una cosa che mi sono chiesto molto volte. Sulla cosa del Corriere comunque non era vero questo, in ogni caso non era vero comunque. No, lo so, io lo dico però come cosa teorica, al di là di questo, sì. Probabilmente comunque, lo dico, ma anche se fosse stata vera, alla fine qualcuno avrebbe detto no, quello sta fuori. Sì, no, questo perché è siamo chiusi, siamo provinciali, qual è il nostro problema? È un problema di apertura, credo, alle culture che non sono la cultura italiana. È vero che l'Inghilterra e l'America hanno il vantaggio di, per via della lingua inglese, sono in grado di accettare altre persone, però è vero anche che danno la possibilità ad altri di competere con quelli di lingua madre. Cioè, se ci pensi, il mio primo lavoro, la prima cosa che c'era scritto sul mio curriculum era nato in Italia. Insomma, ecco, appunto, no, è questo che ti stavo per dire. Tu la cultura italiana ce l'hai, basta sentirti parlare per dire, perché un cervello che è scappato non cerchiamo di recuperarlo? Ecco, si dibatte molto, no, dei cervelli in fuga. Eppure no, io credo che sia dovuto appunto più a questioni di chiusure, di sospetti, alla fine noi siamo. Allora tu condividi l'appello che io faccio in continuazione, ma apriamoci, fate studiare l'inglese ai vostri figli, perché il futuro comunque è internazionale, o sbaglio? Senz'altro. A me piacerebbe, cioè condivido senz'altro l'appello e non faccio altro che dire le stesse cose che dici tu a tutti: imparate l'inglese, imparatelo bene, siate pronti a competere sul piano globale ed internazionale attraverso l'inglese. Però sarebbe bello anche avere un'apertura nell'altro senso, di sapere che gente che ce la fa, diciamo, al di fuori dei confini italiani possa poi ritornare anche in Italia e avere successo. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo ancora Francesco con noi in linea. Francesco, tu sai che io lancio sempre una canzone. Cosa scegliamo oggi? Che canzone vogliamo dare ai nostri ascoltatori? Ma guarda, direi che visto che ho parlato di Trevor Noah e il Sudafrica, delle aperture culturali, la canzone che mi viene in mente è Graceland di Paul Simon, una canzone che ha fatto storia sia a livello musicale ma anche per il momento in cui è stata scritta. E anche perché poi l'ha registrata lì, fantastico, Graceland di Paul Simon. Back to tell me she's gone, as if I didn't know that, as if I didn't know my own bed, as if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.